Marco, non si è sentito? No, negativo. Lui entra sempre alle 8, capito? Prima mangia, si fa i comodi suoi, poi entra alle 8, quando la gente è già andata a cena. E faccia così. E chi è rimane? Non ha fatto così. È entrato che era in più dell'otto. Ha chiamato, ma io non gli ho potuto rispondere. A quell'ora io... A quell'ora chiudo, capito? Non ci sto qua io. Vai, vai. Chi tu da Giardo? E così è, se facciamo le chiacchiere, facciamo alle 6, fino alle 7 e mezza, 8 meno un quarto, poi per me io chiudo tutto e vado a vedere il telegiornale, 8 e mezza ceno, non aggiungo in radio. Però la sera acceso, cazzo, lo senti giornale, ma... chiamato all'otto, capito, alle 8 ho chiamato, l'ho sentito, 8, no, forse più delle 8 erano, forse no, più delle 8 anche, non lo so, vabbè, perché mi stavo guardando il film io, c'era un film a 5, fino alle 5 stavo guardando un film, sento chiamare, però non ho neanche risposto. Di invece, la rimanica, vuoi dire già, esce Maria, ma peso, fortissimo maledizio, sta facendo un sacco di danno, E tu la rimani, va di freddo quando sono qui, tu gatta, ho gelato questo. No, oggi freddo non ce n'è perché li peggio. Un bel freddo li peggio, capito, però è un bel forte, vabbè, hai già metti di chia. Tempo sciuo, adesso speriamo che faccia qualche giornata di pioggia, che serve. E se no, pazienza, che continui così. E' sempre comparendi, è dallo primo dicembre che sempre scende a pigliare due cosette. Due cosette, non so. Se non entra adesso, magari. Addirittura, ma sarà. L'ascolto, il cane morto non risponde. È un po' comune. E io pure sta giocando col PC. Con la bicicletta se mi yoga, tanto non comprende nulla, se mi yoga con la bici, è fasciato. Ma non è che c'hai quello, un computer tu che non funziona, che a me mi serve il case, mi serve. Devo guardare se mansarda la tariffa, c'è un sacco di roba. Devo guardare se mansarda, se c'è, trovo, capito. Qualcosa ci dovrebbe essere, un computer che non funzionava, non funzionava, che già funziona, sì. Perché si bloccava gli addanti, bruvisce. Capito, l'altro ce l'ho qua. E più questo però devo far mettere a posto, perché ci sono tutti i dati del codice, di tutti i collegamenti, io devo salvarlo e metterlo a posto. L'altro invece si può anche demolire, capito? Non frega niente. Sì, e anche io mi capo tutto la 30 e ci pongo la roba nuova così. Sì, domani guardo una tariffa. Domani guardo, intanto si abbassa il vetro, va a salire su, a agganciare questo dipolo. Se c'è, ne lo scendo qua e te lo dico, capito? Andà bene Meda. Perché ci avevo buttato un po' di roba, ma mi ricordo qualcosa di computer era rimasta proprio perché me l'aveva detto Rosio di tenerlo, non sa mai che servivano pezzi, capito? E quindi l'avevo tenuto sicuramente dietro qualche cassetta, dietro a qualche parte, dentro qualche cassetta, boh. Comunque domani mattina controllo. E poi te lo dico. Sì, a me, se no mi tocca comprare anche quello nuovo, l'alimentatore, invece l'alimentatore ce l'ho qua. Si situazione che ha avuto subito Israele, Trento, e si può curare roba nuova. No, vabbè, a me interessa che l'aumentatore tutti, il computer accende, l'aumentatore lascia, mi interessa la, perché ci dovrebbero essere dati lì ancora in quel computer, capito? Ma l'aumentatore lascia perché il computer accendeva, accendeva bene, funzionava, solo ogni tanto si bloccava, c'era qualche problema, non lo so cosa cacchio aveva, capito? I dati sono nell'artista, io ti torno l'artista. Esatto. L'alimentatore non lo staccare, l'alimentatore lascialo. Se funzionava bene, funzionava. Gappa gappa, non si è sentito nessuno, neanche Gianni, nessuno si è sentito. Tutto muto. Ha chiamato a Marco pubblicità, niente. Oh, sta giocando col PC e si sta comprando due cosette, una delle due, quel cuocomane, un briacone pratico. Allora, l'altro ho risposto io, lui è sempre che me raccontare le cose che non interessano, io sto sempre nella mia. A proposito, notizie buone, Giuseppe si è ripreso, Menino sta bene e parla di nuovo. Sta parlando, piano piano, ma sta parlando, capito? E non pesce. 88 anni, non ha superato anche questa, cazzo. Ehi, un amico mio veterinario giovane gli è venuta questa cosa qui e si era ripreso bene, ma quello era giovane, lo stavo tenendo per Giuseppe perché è anziano. Quando si riassorbe già si riprende, là. E ha ripreso a parlare tranquillo che si riprende. Sì, sì, ha ripreso. Capisci, se siamo tutti sotto guerra. 88 anni compiuti. Si è ripreso. Mi ha chiamato Valerio, mi ha dato questa notizia. Adesso dovrebbero anche dimetterlo. Per il momento ancora l'hanno dimesso. Ma appena lo dimettono vado a trovarlo. Capito? E dice era bello pimpante. Si è messo in contatto con la nipote, ha detto che era abbastanza pimpante, no? Si è ripreso, sono contento. E anch'io, grazie, poveraccio, almeno ripreso. Oh signore, con questi cosi qua, queste malattie qui sono all'ordine del giorno. E se non l'infarto, la malattia del secolo, io cazzo, guarda, quando facevo quel lavoro là, non pensavo che erano qui, che all'ultimo momento l'infarto. E cosa, in giro di tre giorni stanno in cultura, al reparto mi hanno mandato, che se ne è pianata la sala, come mettono quelli urgenti, a me mi hanno lasciato lì. Come mi hanno operato e poi dopo tre giorni mi hanno mandato via in reparto, ma che si è pianata la sala, non lo so, figa. Lì cosa in cardiologia è una cosa malissima, lì finire attende più bene, lì si lavora. Terapia intensiva li lasciano subito, capito, li metto anche lui, poi l'hanno messo in animazione, poi non so cosa gli abbiamo fatto, ma comunque si è ripreso abbastanza bene, là. Vabbè, una raffica di vento, oggi ce l'ho di fianco, qua si vedono gli alberi piegati in due, è forte il libeccio, maledetto sia. Sempre sul binario 10, sei tu, mai sul binario 1, sul binario 2, sempre sul binario 10. Ciao Gianni, buonasera, avanti, io e Natalino siamo. Ciao Gianni il Caldo, grande modulatore del binario 10, Gava Gava. E allora, segnate del 300. Saluti dal tuo grande amico Marco. Grazie, altrettanto, non si è fatto più né vedere né sentire Marco. Io manco il numero, so se no l'avrei telefonato. Meno male che gliela danno, poveraccio. Io un piccino che era un piccato, se ne era stato pochissimo incidente. Vabbè. Chi è Loghi? Mi hai detto che non fai? Ecco quale ci faccio bene mentre. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Fra un po' anche tu appartieni alla categoria nostra, dei pensionati, dai, piano piano. A proposito, Gianni, guarda, mi ha chiamato Valerio e Giuseppe si è ripreso, ha ripreso anche a parlare, ok? No, questo è un immenso piacere, dai. Te l'ho detto io che poteva succedere, Claudio, anche a me, 88 anni, 89, come ti ha detto Valerio, quello ci mette a tutti sottoterra. E non li affare, a chi se mi si pone sottoterra a me? Ah, caglia di butto, io c'ho sottoterra, che si giova la cura. Ma non so cusano, sei questo di rispetto. È facile, solo a pensare da com'ero, che c'avevo una porta, un foro ero io, eppure uno della porta manca camminava. Guarda che a vedersi così è triste, eh? Io sono uguale. Vabbè, quando tu mi sei andato, la capito, che c'hai dove sono i isolatori, poi ci sono i due pezzi di nylon, sono attaccati con due ganci, no, dentro il tubo, muovi che ti muovi, mi sgancia sempre. Allora il vuoto non muove, il bambino rimane il leone, appena abbassa il vento, vedi che non si sgancia più, ma da non è fa, si appoggiano in terra e basta, no? Mi sono accorto dalla stamattina, acceso HF40, ho visto che c'era poca ricezione, infatti quando sono uscito a portare il cane ho visto che era una parte del bitone era per terra, capito? Ma non le fa niente, non le fa nulla. Avanti Gianni. Gianni, ti ha aspettato un minuto, andato a prendere il figlio, sono da 15 minuti. Ehi, ehi Marco, va bene, no problem. E noi mi siamo qua a fare due chiacchiere, ammazzare un attimino il tempo. E poi alle 8:30 ceniamo, e la giornata è finita anche oggi. E tu Natali, finito questo computer? No, non hai fatto niente ancora computer. No, devo ordinarmi il materiale, perché lo devo fare in base al case che metto. Capito? E quindi non ho ordinato niente, mai a più e poco arrivi la roba. Cosa ti scrivi? Poco mezz'ora mi ha piazzato. Ah beh, se uno è pratico non è che ci vuole molto. Infatti, cosa avevo? Piazzi, processore, scheda madre, RAM e si chiude di due lei. Da voi colleghi tutti i ricavi e sei a destra. Vuole molto. Collego gli hard disk, l'ho formato e gli metto il sistema operativo nuovo. Se mi avanzano tutti, mi compro uno di quelli allo stato solido, così diventa un razzo. Quelli so che ho sentito dire, io non me lo intendo, ma so che sono molto, molto veloci come computer. Sì, compro un processore di quelli ultimi sistemi e una scheda madre nuova. La RAM è di R4, l'ultima che è uscita, è l'ultima, poi lo posso aggiornare quando voglio quello, con quel processore che metto, posso mettere i processori che voglio. Non funziona, non il mio, è nuovo, lascio così, una bella macchinetta, la facendo poco io, giusto guardare le mail, le cose. Ci sono problemi, capito? Va bene. Avanti Marco. Dai, sono io, ho ripreso io, dai. Mi sono assentato per un attimo. Adesso sono rientrato in macchina, dai. Sto aspettando Marcolino che esca da un amico e così poi lo porto a casa. Andare, riprendi Natale, cambi. Eia. Siamo qui, sono tutti carrugati, ma con questi presentati. Carino, non ti piangere addosso. Giovane ancora, su con la vita. Per stare su con la vita mi ci vorrebbe una bella 18enne, mi la posso in coda e mi porto da caro. Ma ti porto io a vivere una notte, gli dici al concetto ti chiudi il telefono, se no ti telefono 2 secondi. E ti porto io a vivere, ci facciamo una bella cantata, vedrai che ti passa tutto. Ehi, solo che a cantare, non riesci a capitare, non solo di cantare. Dai che quando vedi a Curbai ti metti a cantare. Quando vedi a Dubai? Ormai il corvo, lo sai perché lo chiamiamo così, è un cameriere come finivi da bere subito, non ti facciamo manco finire che ti ritiamo i bicchieri, mi dica qualche cosa altro da bere, che se la tagli un po', ma come tu dimmi che sei già giunto la pigliata di tasse. Ma chi c'è Curmai a vero? Avevo chiamato Curmai, il corvo. Ehi, se c'è da bene andata domani me ne avevi abbagliata a me. Una cosa allucinante, perché cioè noi andavamo a karaoke, no? Loro hanno questa cosa di fare in fretta per farti più via mano, per far porti bene, eccetera, eccetera, no? Mi ammalcolino, mi aiuto. E vabbè, non mi devi dare anche il tempo, però, e poi non è obbligatorio, se ho già bevuto, posso imbriagarmi, aspetta un attimo, poi, se ne ho voglia te richiamo io, per carità, se finchi mi puntato mentre lo golfo. Puntati, Sazia, va via una vita, guarda, è un palco, Maria, come vedeva che mancava la beuzia, subito veniva a casa a vedere cosa volevi. Hai compreso? Ma chi si lo chiamava il Gourmai? Sì, no, non si stai mai quello. Aspetti, se sto già consumando, ho già consumato, e poi ti chiamo, capito? Ti chiamo io e vedo un po' se ho necessità di qualcosa. Meglio di stare gonfiandomi la balla. Va. Ripeti già che devo mangiare il cane, dai. E poi al limite rinforzerà. E già, va bene già. Andare. Siamo dopo, già sei nascosto, va. 140 grammi c'è. E dove? Sono andato a quello dietro le carceri con mia moglie, si mangia bene. Se io vado, cavolo, ho preso roba ai frutti di mare sicuramente, perché a chi piace lui. Andrà bene mela. Ti saluto, sono arrivato, poi magari. Sì, ciao, salutami a Marco, ciao, e a Marcolino piccolo. Ha cambiato tutto al 100%. Eccomi qua, Cuocuomane, non è entrato, Cuocuomane. Non è entrato, no. Guarda, sicuramente è un casino. Come pratico quello? Guarda, non lo so, non viene bene a dirlo, casino, sempre impegnato, queste cosette, poi sicuri che si mette a sognare. Allora, sarà comprando due cosette, quindi è impegnato, si è addormentato sognando. Che è caduto dentro il pozzo. Un'altra volta ha sognato, l'avevano investito, non l'hanno visto dove, però. Questo Marcolino non lo so io, a me mi sembra che sia Cuocuomane quello. Sì, più che Cuocuomane sicuramente. E più che Cuocuomane. Stava giocando col PC, magari non si rende conto che ora di poter entrare qua, oppure sta ascoltando gli affari che non lo riguardano. La seconda è più fattibile, sicuramente. E chi è questo? Chi è? Avanti. Non mi sembrava il BP suo. Non mi sentite? Vabbè, avevo il microfono abbassato. Ciao a tutti, buonasera, chi è? Claudio e Natalino, ho sentito. Io ho risposto, ma avevo il volume abbassato al zero. E per quello che sentivamo, ciao, ben entrato, avanti qua. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. No, veramente abbiamo sentito solo il bip, infatti ho detto non è uguale a quello di Marco, sicuramente è qualcun altro. E poi si è levato il microfono e allora ti abbiamo sentito. Avanti, riprendi. Ok, ciao qua. Sì, avevo il microfono a zero, per cui, perché l'abbasso sempre per risparmiare un po' di batteria. Non dovrebbe consumare, anche se il volume è a un certo livello, però sa, tanto non costa niente. E adesso mi ero dimenticato di tirarlo su prima di iniziare a parlare, e dunque per quello che avete sentito il bipi e non la modulazione. Buona serata ancora, avanti Natale. Stavamo aspettando che entra Marco, ma stava comprando delle cosette, lui è impegnato, capito? E non c'è entrato. Ecco. Oppure sta giocando così. E insomma è una persona impegnata, sta scartando. Ehi, vabbè, lasciamolo fare, sarà indaffarato. O forse sta plasando, tu già lo sai che questa è l'ora sua, per cui se non si alimenta non ha le forze giuste per poter dialogare con noi. Avanti qua. Ecco, arrivo, mancano i forzi, allora mancano le forze, lui pranzo a quest'ora, quindi cioè vabbè, non vedo il rattalimento che vermi ancora. C'è un vento di beccio qua su che dà paura, ma perciò tutte le avvolgibili abbassate, vago in galera. Oggi è giornata molto, molto ventosa, molto ventilata, per cui, ma tutta la notte anche, non solamente oggi di giorno, ma anche stanotte appena passata ne ha soffiato abbastanza di vento. E vabbè, è tempo suo, d'altronde, cosa ci vogliamo fare? Infatti appena che mi sono alzato stamattina, ho controllato l'antenna a vedere se era ancora in piedi, dai in piedi, nonostante il vento fortissimo che c'era qui stanotte. Avanti, era lì. E anche la mia dai, se non l'ha toccata il vento, io già sto parlando. Beh certo, vabbè, no, così. Che ancora non avevo collaudata col vento di una certa consistenza. Ah, c'è la tosse. Stavo dicendo, non avevo ancora collaudata col vento di una certa, con una certa consistenza da quando avevo messo questo pezzo di filo, così, vabbè, ecco, fa la canna fresca, per cui già oscilla. Vai qua. Ehi, quanto c'è la che 80 km orari, oltre anche, così ho detto la TV, il beccio, l'alghero, adesso è calato un po', ma ci sono raffiche forti lo stesso, e vabbè, tante le vostre già reggono, direttive mie già stanno reggendo, vuol dire che già sono montate bene, di poco filare che mi ha attaccato i ganci, perché ancora in terra non ci salgo su con questo momento, agganciarli di nuovo. Se domani calma, salgo e li aggancio. Capito? E quello uscì da un bel, quindi c'ha dei ganci. E si sono sganciati adesso però. I ganci li metto in maniglioni così non si sgancia più. Della seconda volta lì, l'altra volta col maestrale, adesso con il biccio. Mentre la direttiva ho visto che oscilla da destra a sinistra, ma c'è il blocco motore, c'è il cosciente di spinta, quindi già tiene. E poi c'ha le fasce a cricchetto, già le avevo messe quest'estate. Ho visto che sono molto più efficaci rispetto ai tiranti normali, perché quando sono lenti sali su, una passata del grippetto le do la punitiva, però ho visto che non si sono mai calentati, perciò già vanno bene. E Natalia, tua, se regge questo vento è a posto, è forte, è un buon forte. Ho visto stamattina la 510 a 45 gradi era, a 45 gradi si è pigiata. Indubbiamente sì. No, ho visto che già regge, e se non regge pazienza, vuol dire ne faremo un'altra più consistente. No, già va bene, no, ma perché stanotte, sai, sentivo proprio il soffio del vento, nonostante i doppi vetri si sentiva, dunque se si sente il vento qua dentro durante la notte vuol dire che è veramente forte, perché con i doppi vetri c'è un silenzio assoluto qua a casa, per cui non c'è che da pensare che era molto forte, solo quello potevo pensare. Va bene, avanti Natalì. Sì, anch'io sono più svegli, il rumore è forte. Beh, certo, perché i doppi vetri attutisce molto quando vanno su, eccetera, no? Perché anche quello è importante. Lungo il perimetro delle finestre ci devono essere le guarnizioni, ma di quelle come si deve, però quelle in gomma là in castro, che sono incastrate direttamente dentro la sede del legno, perché sennò entrerebbe il rumore anche da lì, dalle fessure eccetera. Invece è tutto sigillato, qui non entra il vento, non entra niente, solo un rumore quando è veramente forte come stanotte appena passata. Avanti qua. Via. Beh, anche da me, un'altra cosa che io sento, orecchio fine, sono riavvolgibili, che si sente, anche se sono abbassate, però si sente, in vetro, no? Ah, io ho 23 gradi, no? 23 gradi ci sono, ma freddo non ce n'è neanche fuori, freddo non ce n'è neanche fuori, perché il vento di Beccio non è freddo, però è un bel forte, no, beh, puro prendo dal lato del salone, l'alghero, no, tutti gli avvolgibili abbasciati, perché se no non fa, invece qua in sala radio è tirata sull'avvolgibile, e vabbè, c'è anche Gianni, non so se è rientrato a casa, Gianni ci sei? No, non c'è, riprendi Natale, riprendi. Lui è andato a prendere due cosette, non ho capito, ma è andato a accompagnare a Marco e prenderà anche lui dopo, va, no, va bene, avanti giù. Ok, sì, va bene così. E allora, in questi giorni com'è andata la situazione in frequenza? Io per le cause maggiori non ho potuto mettermi alla radio, però diciamo che in un certo senso mi mancava anche la radio. Vabbè, mi è mancato qualcosa di più caro, però chiaramente è tutta un'altra musica. E cosa ci volevi fare qua? Cosa dirti? Speravo in una cosa migliore sabato scorso, invece è andata così come è andata, senza fortuna. Pazienza, dai, avanti qua. Ehi, ma peggio, gli andava uscito un punto barometro, cioè vabbè, ha visto un Napoli già calato, noi ci tocca il Tottenham, spero che ci faccia qualche scherzetto, perché il Tottenham ha tutto Real Madrid 3-1, quindi non bella squadretta, vabbè, comunque, il campionato è ancora lungo, 40, 39, 38, perciò sono tutte e tre lì. Non tanto il Milan ieri che ha vinto, ma Marco Gattuso è contento, dice lui, si è fatto pareggiare dallo portiere, se no ne aveva già vinto due, comunque, e vabbè, andiamo avanti, speriamo che tutto proceda come deve procedere, però almeno un campionato un po' diverso rispetto agli altri anni. E si suppone che, così c'era scritto nel Corriere, che la Juve stia puntando più alla Champions che al campionato quest'anno, se poi arrivano tutte e due ben vengano, ma sta puntando alla Champions, che sarà molto difficile comunque, anche se rifà la finale come l'anno scorso, sempre di Nasso. Avanti Natali. Io bilancio e preparo qua qualcosa, già poi nascosto, e qualche battuta già l'ha fatto. Ehi, siamo qua, tanto sono 7:15, dopo essere 7 qualcosa, mi sistemo il cane, perché la dove è troppo freddo. Avanti giù. Ok. Beh certo. Non so nemmeno cosa dire, penso un po'. Periodo difficile per me, qua. Periodo difficile, vabbè comunque, ormai è passato. la vita ti riserva anche queste questi momenti così di malumore, pazienza, e cosa vuoi fare? Già c'era l'età, grazie a Dio già ho vissuto, anche se sono rimasto un po' meravigliato perché era lucidissima sino all'ultimissimo secondo, non minuto, secondo, mia madre, qua, lucidissima, questo l'ha detto, me ne sto andando, lei stessa ci ha subito avvisato. Purtroppo la vita è così, per 95 anni avrebbe convinto, almeno Natale poteva passare, invece se n'è andata un po' prima, pazienza, dai, avanti qua. Ascolta, cosa ha avuto? E cosa ha avuto? Niente, è la vecchiaia, 95 anni, dicono che ha avuto un collasso renale, per cui una è di colpo così, cosa che mia madre non ha mai avuto diabete, non ha avuto niente, gli è salita la glicemia a 400 di colpo ed è morta. Premesso che mia madre non è stata mai ammalata, non ha avuto mai la diabete, non ha avuto mai la glicemia alta. Tant'è vero, le ultime analisi che le avevano fatto in ospedale erano tutte regolarissime. La vecchiaia è morta per la vecchiaia. È arrivato il momento e è finita lì. Vabbè, giù, 95 anni già. Ho detto l'altro giorno, ora avete dovuto, pazienza, ma quando lui mi è Giuseppe ha avuto la settimana scorsa un collasso, una cosa, non so se ischemia, non favitava più, e oggi mi ha mandato un messaggio a Valerio, dice che si è ripreso, che parla, che si è ripreso, e c'ha 89 anni. Anche cosa di una bella età, comunque sono contento che si sia ripreso, speriamo bene, dai, quando si arriva a una certa età chissà, c'è da aspettarsi di tutto, per cui no, non c'è da meravigliarsi se succede irreparabile, speriamo bene, io lavo il loro cuore Giuseppe, figurati, ancora però si può vivere, vabbè. Comunque, non ci facciamo più, sono stato la settimana che non ho dormito, perché non riuscivo a togliere il pensiero dalla mente. Adesso ieri notte un pochino sono riuscito a dormire qualche ora, ma non riuscivo a togliermi il pensiero dalla mente. Mi assillava continuamente, anche se cercavo un modo di distrarmi, niente da fare, no, era più forte di me comunque. È normale, ti rimane quel pensiero, il perché, il per come, e però è uscibo, poi c'è mamma che c'ha 80, 88, 89, non so, è abbastanza lucida, ma non cammina quasi più niente, capito? Però l'uguri già forte, proviamo a andare avanti, invece accompagnata da tutto, però già riesce ad andare avanti, ma quando arrivi a quell'età, prima o poi te lo devi aspettare, dai, prima o poi, io lo stesso mio socio, è morto lui già all'improvviso, 83 anni aveva, mia suocera poi si è lasciata andare, non ha manco polmonite, non ve l'ha fatta, erano tutti e due abbastanza attivi, gaiette, vabbè non vi bisciava, vai avanti, bisogna andare avanti. Beh certo, la vita continua, quello è ovvio, ci mancherebbe. Vabbè, parliamo di altro, così almeno me ne dimentico proprio, tra virgolette chiaramente. E ti stavo dicendo, il discorso Juve, io non riesco a capire come mai abbia avuto questo calo di bug, solo quello non riesco a capire. Non ci riesco nella maniera più assoluta, io penso che siano persone di cuore, perché avevo letto tempo fa che aveva avuto problemi con la fidanzata e sono convinto che magari solo per il fatto dell'amore lui si trova in questa situazione così, si è lasciato andare, insomma, ecco, e ancora non riesce a reagire in maniera positiva per quanto riguarda il suo lavoro, perché è quello che deve curare soprattutto. Poi la ragazza poi può fare pace tranquillamente, ma evidentemente è proprio ferito in qualche maniera. Avanti, io qua. Se è ferito ci vuole curare, cioè mica Juventus Inter, cioè noi, vabbè, non ha giocato di bala, però io non so se Higuaín stava giocando, se Icardi stava giocando, non so, non ho visto niente, io avevo solo Cuadrado e Mandzukic e capito, solo quelli ho visto io giocare. Bene, è un bel centrocampo, c'è stato soprattutto una bella difesa, però la Juve ha meritato, ma la palla se non entra, attraversa, con le parate del portiere dell'Inter, molto bravo, però se non entra, non entra, vuol dire che il quadro è già competitivo, tutte e due, capito? Mentre invece con Napoli Higuaín c'era e era dimostrato, ma con l'Inter io sinceramente pensavo non fosse neanche in campo, perché non la giocavo più vicino, assolutamente. Adesso vediamo, cosa c'è la Roma la prossima, ci vediamo con la Roma, cosa succede, ma ti ripeto, sul giornale c'era scritto che la Juve sta un po', vorrebbe puntare alla Champions, non al campionato, visto che campionato quest'anno è così, però vorrebbe puntare più alla Champions, alla Champions le bucce di gioco, no? Beh certo, ma io se fosse la società avrei detto alla squadra, no, noi pensiamo prima al campionato, perché con la Champions non credo che abbia molta strada da fare se continua a giocare male. Anche se dei miglioramenti si sono visti, ma perché manca proprio nei suoi uomini migliori, sta mancando proprio nei suoi uomini migliori, per chi dirà, tanto per fare un nome così a caso, lento, ha tirato quel tiro davanti al portiere da solo, che avrebbe dovuto sfondare la porta, e invece no, gliel'ha tirato piano, gliel'ha praticamente passato al portiere il pallone. Ma quando mai un giocatore come Chiedira è lento, troppo lento, no? Non lo so. Mandzukic è stato sfortunato, quel colpo di testa ha preso la traversa, un'altra parata che ha fatto anche su Mandzukic, lo stesso, non c'è quella cattiveria giusta per fare il rete, ecco, per fare gol. Non lo so cosa sta succedendo. Lui, quello che mi dà fastidio è che non riesce l'allenatore, nemmeno lui, a capire, forse sarà confuso, avrà un attimo di confusione anche lui, non riesce a capire che cosa effettivamente manchi o che cosa deve fare, non lo capisce, non l'ha ancora capito. Pazienza, però sono contento per la difesa, la difesa sembra che sta tenendo, bella chiara soprattutto, è abbastanza in forma in questo periodo, riprendi. Infatti, già ho detto, tre partite non prendiamo loro, quindi sì. Perciò la difesa ci dovrebbe essere, con un bel attacco in linea, dovrebbe esserci. Adesso vediamo contro la Roma, cosa vuole schierare, cosa vuole fare, no, non lo so. Siamo sempre col punto interrogativo, ti ripeto, la squadra c'è perché c'è, però potrebbero avere, come hai detto, un po' più di cattiveria, proprio nel modulo di gioco, nel mettere la esatto, però c'è l'Inter, c'è, quindi non vogliamo far scappare le prime due, sia Napoli che Inter, allora la competizione c'è, comunque c'è, perché insomma 40, 39, 38 sono lì, tutte e tre. Adesso c'è la Roma che si sta avvicinando, sta facendo un buon lavoro di Francesco, eh. Ho visto una bellissima Roma. Sì, la Roma è un'ottima squadra veramente, considerando che ha solo 3 punti in meno della Juve, però deve recuperare una partita ancora. E io penso che oggi come oggi la Roma è più forte della Sampdoria, mi sembra che era che deve recuperarla con la Sampdoria. E dunque io la considero a fare i punti con la Juve, in un certo senso. Allora, tu mi dai, ma ancora deve giocare, certo, ma se, sapendo quali sono le potenzialità della Roma e quelle della Sampdoria, la Roma è di gran lunga superiore, è più forte. Adesso vedremo, perché io ho paura che per la prossima partita lì, perché col Bologna non è che sia tanto semplice, adesso c'è prima Bologna e poi c'è la Roma, per cui non è semplice, guarda, perché anche il Bologna sta girando discretamente, sta girando, per cui anche se non sta vincendo tanto, però sta facendo delle belle partite, le prime. Facciamo le partite, sì, poi c'è una bella squadra, c'è Destro, c'è Cosa, come si chiama, c'è dei giocatori, c'è. Poi si è a Bologna, poi in questo periodo è sfigata fuori casa. Sì, a Bologna, certo, deve andare a Bologna, deve andare, c'è quel ragazzo, quel Verdi o come accidentaccio si chiama, è un bravo giocatore, è veramente in gamba. E poi lo sappiamo, Domenghini la squadra la sa mettere in campo e quando capitano queste partite che devono dare l'anima, è in grado di esaltare i giocatori e quelli danno l'anima veramente. Poi lo sappiamo, tutti quelli che giocano contro la Juventus se ne tolgono la pelle, se ne tolgono, giocano alla morte, giocano pur di batterla. Speriamo bene. Vabbè, dai, non ci pensiamo. Avanti, qua. Infatti, aspettiamo questo Bologna Juventus, poi c'è Juventus Roma, infatti. Roma Juventus. No, contro la Roma gioca in casa la Juve. Sì, contro la Roma gioca in casa, però dobbiamo considerare che a fine campionato, quando sarà il giorno del ritorno, abbiamo tutte quelle partite così, in scontri diretti, tutti fuori casa, tutti. Per cui, perché la Juventus deve stare giocando tutti in casa. Sembra che l'abbiamo fatto apposta questo calendario quest'anno, a mettere tutte le squadre più forti, uno vicino all'altro. Incredibile. Vabbè, comunque, se la Juve si mette bene, non ha paura nemmeno quando gioca fuori casa, per cui, anche se sicuramente quando va in trasferta diventa più difficile la situazione, però staremo a vedere, riprendi, vabbè, a Napoli tu mi dirai, ha vinto fuori casa, giusto, a Napoli ha vinto fuori casa, e l'Inter, però dopo ce la ritroviamo fuori casa, e la Roma ce la ritroviamo fuori casa, e così via. Milano è tosta, Inter Juventus è tosta, Inter in casa è una bella bestia, ma anche fuori casa sta dimostrando che Spalletti quest'anno ha fatto un capolavoro, io non sono un antinterista, però io sono sportivo, a differenza di tanti altri che vedono solo la propria squadra, io me le guardo tutte. E ho visto una grande Inter, molto motivata, molto con un bel gioco. Non dico a livello del Napoli come qualità di gioco, ma comunque molto molto interessante ciò che sta facendo. Spalletti, vabbè, lo sapevamo, arrivo di Spalletti, ha rivoluzionato tutto, pur avendo la rosa dei giocatori dell'anno scorso, però Spalletti, non si buffa mai, Spalletti chi si valita tutti, tu chi sei? Capitano, vabbè, se va in panchina, il capitano fa le rosse, comincia a abbassare la cresta. Spalletti è un grande allenatore, infatti io speravo che andasse alla Juventus quest'anno, invece sei andato all'Inter. E quello è. Io ci speravo veramente, guarda, anche perché per come parlava lui sembrava che lui era intenzionato ad andare alla Juve, e invece la Juve ha rinnovato il contratto Allegri, forse perché aveva vinto il campionato, che lo sa, anzi senza forse. Però sinceramente parlando, io quando è successo il fatto con Bonucci e poi anche con altri giocatori, vedi che Vila, vedi anche la settimana scorsa con Pjanic, addirittura lui ha trovato la scusa, dice che l'aveva chiesto Pjanic il cambio, invece non è vero, se quando è uscito arrabbiato come fa, avevano chiesto lui il cambio, e nelle altre partite è lo stesso, anche con lo stesso Manzo, che c'è lo stesso, aveva avuto qualche controversia. Di Bala pure non ne parliamo, quando addirittura aveva buttato i palazzini per terra proprio con rabbia, e Higuaín, con Higuaín lo stesso, tutti sono usciti dal campo arrabbiati, evidentemente non è ben visto lui, almeno quest'anno non è ben visto dai giocatori in quella squadra, hai capito? Sì, ma come dice Marotta, le interviste di Marotta sono sempre quelle, l'allenatore lui decide che deve giocare, secondo lui è così, quindi se la società è d'accordo che le decisioni le prende Allegri, non andava a Giulio, è così. Marotta dice sempre, l'allenatore lui, noi non mettiamo lingua, possiamo solo stare lì a guardare chi scende in campo. Però se lui decide che Higuaín non deve giocare o che Dybala non deve giocare, vuol dire che c'è qualcosa che lui sa, qualcosa che lui effettivamente Dybala non è che abbia fatto tanto, quindi gli ha servito l'ingresso di Bernardeschi, come ha rivoluzionato subito la partita, capito? Che si giochi con un capo e un pallone va bene, ma se giochi con un pallone e un capo allora non andrà più bene. Infatti è proprio così, e poi c'è da considerare questo cambiamento di modulo che ha sempre. Uno deve stabilire, fare quel modulo, giocare a tre o addirittura a quattro a centrocampo, perché sennò è utile stare a cambiare modulo continuamente. Lo stesso Manzo che in questo periodo è un po' sfruttato e dunque non è in pienissima forma, è stanco, si vede. La partita precedente c'era Douglas Costa, ragazzi, che ha fatto una partitona, l'ha fatto, e poi non lo fa, non lo riconferma. Lui ha le sue idee, vede qui e basta, senza considerare che c'è un Bernardeschi, c'è un Douglas Costa che sono altamente in forma, più di Bala e più di Mandzukic in questo momento, premesso che Mandzukic è importantissimo, però caspita, se è stanco è stanco una persona, non deve guardare in faccia a nessuno, deve metterli anche lui, ha messo in panchina, ha fatto riposare a Higuaín e lo fa riposare a Mandzukic o a Dybala, ma scherzando siamo, ma è allora che il direttore sì, è questo che io penso, capisci? Infatti già fatto come ha detto lui, vabbè, di Cuadrado ha fatto un partitone contro l'Inter, quindi è così, va bene così, poi insomma la squadra ha già giocato molto bene, però se avesse fatto qualche altro cambio, grazie di Dio, forse magari insomma, con quei scatti, con la grinta che c'ha tra la scosta, insomma non lo gioco. E appunto quello poi non ha avuto nemmeno l'intelligenza di cambiare, fagli fare l'ultima mezz'ora, ragazzi, che ti trasvolge la partita, te la spacca proprio tra lui e Cuadrado. Contro l'Inter avrebbe dovuto giocare tutti e due all'esterno e magari cambiare subito, senza stare lì agli ultimi 10 minuti. In 10 minuti cosa fai? Non riesce nemmeno a scaldarsi, ma almeno l'ultima mezz'ora l'avevo fare a fare, avete considerato che l'ultima mezz'ora l'ha proprio schiacciata, le ha messo uno, le ha costretti a giocare in aria del coso, dell'Inter. E probabilmente con uno più brioso sarebbe scappata anche la rete, invece non l'ha fatto nemmeno quello, non lo so io cosa pensa le volte. Sì, è vero, è lui l'allenatore, decide lui tutto quello che vuole, avrà la fiducia della società, ha fatto bene, indubbiamente, ha vinto quello che ha vinto, tutte queste cose, però ci sono dei momenti proprio che non riesce a leggere bene la partita, è questo che intendo io. Forse è troppo innamorato di Mandzukic, è troppo innamorato, evidentemente. Sì, per lui l'ha detto che Mandzukic ci vuole. Adesso lui aveva provato un po' al posto di Mandzukic dalla scorsa, però Mandzukic è un bravissimo attaccante, Giulio. Lo dimostra in tutte le partite che fa, dal cuore sale, scende, tu lo vedi andando e tornando a destra e a sinistra. Oddio, se la balla non entra, è stata una bellissima partita per la Juventus-Inter, però se non entra, ambedue le parti, diciamo, l'Inter ha fatto pochi tiri in porta, arriva pressato tanto, però c'è una squadra come l'Inter, c'è una buona difesa. Ah sì, questo senz'altro, sì, in effetti quello sì, bisogna riconoscere che noi diciamo il Napoli gioca molto bene, certo che gioca molto bene, un gioco arioso, un gioco un po' di profondità, un gioco con delle geometrie perfette, precise, un'intesa poi straordinaria, non ci sono dubbi, si conoscono la memoria, però come vedi anche chi riesce a difendere bene, anche quello vuol dire bel gioco, secondo me, meno spettacolare, perché sia un difensore, perché sia un mediano, perché sia un centrale, però anche quello è bel gioco, e l'Inter l'ha potuto fare. La Juve ha fatto un gioco d'attacco, non ci sono dubbi, 7 tiri in porta contro 2, tanto per dare l'altra un'idea, quelli proprio arrivati in porta, a parte quelli fuori, no, eccetera. Ma per dire, però se l'Inter non ha subito, evidentemente ha giocato bene in difesa, sì che il gioco è bello sia quando uno attacca che quando uno difende, bisogna riconoscere quello qua. Senza ombra di dubbio, però io sono del parere che si poteva dare un di più, no? Soprattutto con degli inserimenti un po' più veloci, come hai detto tu, perché se trova da Glascosta che usciva Mandzukic, o addirittura Higuain, mi dicevano, ha toccato palla, può darsi che per Glascosta, ti ripeto, con le sue velocità, con la sua, con tutti questi ingrigliotti che fatti, può darsi qualcosa, sarebbe uscito, però ti ripeto. Sono due squadre che abbastanza forti, la Juve ha ritrovato la sua difesa, l'attacco c'è, però quando importa c'è un bravo portiere, non te lo dava, te lo nega il gol. Ah sì, quello sì, perché diciamo che Andanovic è un grandissimo portiere, per me nemmeno pari a Buffon, per cui, ma da sempre, non da adesso, da anni, è stato sempre un grandissimo portiere, per cui questo tanto di cappello nei confronti di Andanovic, non ci sono dubbi. Sì, beh, certo, ci vuole anche un po' di fortuna, perché la traversa poteva essere una rete, poteva essere, certo. Ma altri tiri a tu per tu col portiere che non sono andati a buon fine, anche quello che ha liberato praticamente sulla linea, quel colpo di testa sulla ribattuta del portiere, prima ha tirato Mandzukic, poi sulla ribattuta ha tirato di testa, ha tirato ed era quasi fatto. Purtroppo c'era quella Miranda, che è un gran giocatore, anche quello, era la tolta perché era dentro, quello era quasi dentro, era già sulla linea si può dire, per cui ci vuole anche un po' di fortuna. fortuna. Ecco, per quello che dico che bisogna giocare con un po' più categoria, se per quel tiro fosse stato leggermente più forte non ce l'avrebbe fatta a raggiungere il pallone nell'anda, sarebbe entrata, e questo intendo dire, capito qua? E il prossimo tiro di Higuain è solo davanti al portiere che gli ha dato Alessandro, o Giamonà mi pare, se non mi ricordo, forse Giamonà, che l'ha tirato là, è uscito in tribuna, anche quello poteva essere un po' più regolato, visto che lui è un grande bomber, no? Sì, indubbiamente, il fatto è questo, che secondo me, quando gioca in quella posizione, e cioè che fa questo rientro, dare man forte al centrocampo, eccetera, visto e considerato che la Juve può giocare a 3, può giocare anche a 4 dal momento che i centrocampisti ce li ha, e anche i centrocampisti centrali ce li ha, perché non li impieghi, perché non li metti a giocare? Lui invece scende giù, scende per prendersi il pallone, quando arriva in aria è chiaro non ha più quella lucidità e quella forza, perché stiamo parlando che deve affrontare fior di campioni, come quello dell'Inter. Per cui, vedi, secondo me io ci passerei un po' più sopra il fatto che ha sbagliato certi tiri di Higuain, proprio per quel motivo, perché arriva in aria con una certa stanchezza e l'attaccante puro deve giocare ai limiti, sempre sulla linea dell'area del rigore deve giocare, senza sprecare energie inutili, perché sembra così, ma quando devi tirare in porta ci vuole una concentrazione particolare, soprattutto una forza fisica, in modo che tu hai anche una certa precisione, ma se ti lasci in aria perché ti sei stancato precedentemente, sei arrivato lì e non ce l'hai fatta, e anche questo succede anche a Dybala, tra l'altro. Anche questo sta succedendo, non succede a Dybala, anche questo sta succedendo, però infatti come hai detto tu, centrocampisti ci sono, basta metterli, infatti visto che è uscito Pjanic ci ha messo a Bentancur, ma insomma, vuoi venire a Pjanic con Bentancur? Lascia perdere che Matuidi oramai per me può fare anche il titolare, facendo due bellissime partite, ben composto anche in campo, soprattutto come Benatia lo stesso, hanno preso bene il suo ruolo, però Bentancur, noi più grandi, così, a me buchi a Pjanic, l'Inter, la Bui, mi buona a Bentancur, chi batte lo sbaglio al centrocampo che l'Inter se ne mangia il pallone subito e non lo firmi, capito? Prendo conto che Icardi, marcato da Gojo, non ha toccato palla, è proprio vero, quando vai a marcare grandi giocatori così devi metterci il cuore, perché Icardi non ha toccato palla, tanto è vero che poi è uscito. Icardi e anche Candreva non ha avuto vita facile con Chiellini, per cui sì, appunto è quello che dico io. Mi ha detto gli Pjanici che avevano fatto una bellissima partita per mettere Bentancur, ma dico io, caspita, non è possibile ragazzi, non è possibile. Poi si dimentica troppo spesso di Marchisio. Marchisio stava difendendo un'ultima forma e lui invece non lo sta facendo giocare, così lo demoralizzi. Marchisio lo sappiamo, Marchisio, anche se ha 32 anni, però è sempre Marchisio, è uno che ha una certa esperienza, è uno che si sa inserire, e Marchisio ha anche fatto gol. Io dico Marchisio al posto di Chiedira, ad esempio, Chiedira non mi piace, non andrà là, io con i giocatori tedeschi non ci vado molto d'accordo, qualcuno ha funzionato bene con la Juve, ma in genere tutti quei tedeschi che ha sempre preso la Juve, è arrivato Viacco, è arrivato, solo Kohler ha fatto un discreto campionato con la Juve, ma tutti gli altri per me sono andati sempre male, cioè non sono stati all'altezza della loro fama di quando giocano in Germania, di quando giocavano in Germania, ecco come la penso io. Vai due baccari del Bidu, Marchisio doveva essere al posto di Pirlo, il regista al centrocampo doveva essere Marchisio, capito? Poi chiaro, l'arrivo di Pjanic un po', ma se la possono giocare loro, può giocare Marchese, sia Marchese o Bianici. Cosa mi buoni a Chirida, cosa mi buoni a Bentancur a posto di Bianici, ma non siamo bene. Quello dovrebbe essere il centrocampo. Marchese o Bianici. Non c'è niente da fare, poi vuoi giocare a tre, allora metti anche a Chirida, ma Marchese deve giocare. Certo, certo, ma lo penso anch'io così. Che San Marchese è uno che riesce ad orchestrare tutto il sistema di gioco in maniera eccellente, anche perché conosce il calcio. Tu mi dai, ma che dire, conosci? Sì, ma che dire, è lento. Il problema è quello, che dire, è lento. Un gran giocatore, indubbiamente, ma se lo lasci giocare, ma se poco a poco lo marchi, non prende mai un pallone. Lo soffiano sempre, perché lui è troppo lento, non ha quello scatto proprio centrocampista. L'incontrista deve essere soprattutto veloce, non puoi tu mettere uno a centrocampo che quando muoversi aspetta, ci vuole la dinamite, no, non è possibile, ci vuole uno che l'incontrista deve essere uno che deve subito liberare e proporre allo stesso tempo, e invece no, andiamo vici, caspita. Purtroppo te l'ho già detto. È lui che dirige, lui che fa la squadra. Per me, fossi stato io, Trovetto, centrocampo, Chirida, va bene. Pianici, Marchisio, però Marchisio ci deve essere, perché centrocampo Marchisio sa lavorarlo al centrocampo come rapirlo, capito? Poteva tranquillamente, poi si è fortunato, adesso lui dice, perché la domanda gli hanno fatta a premio, non so se l'hai sentita da Ferrara, gli ha detto ma è Marchisio in fase di ripresa, ancora deve andare pianino, ma cosa ci disegna? Ha fatto un partitone l'altra volta che è entrato, ma cosa deve andare pianino? Marchisio deve essere titolare, Marchisio è dopo Buffon e Chiellini con la Juventus potrebbe fare anche il capitano, ma di cosa siamo bravi bene. Infatti poi da quando se ne è andato Pirlo lo avevano proposto proprio per sostituire a Pirlo, l'avevano messo a Marchisio e c'era riuscito discretamente. E poi ultimamente, proprio quest'anno, quando l'ha fatto giocare, ha fatto una partitona, invece non lo confermi di nuovo, non lo gioco io. Ho detto, lui ha le idee sue, dice, sì, posso capire che deve fare anche riposare, ma Marchisio è fresco, non c'è niente da fare, Marchisio è un giocatore fresco, perché era un anno stato a giocare quasi, per cui non è sfruttato, ecco, anche se ha 32 anni, però ha tanta di quella esperienza in sé, che riesce a risolvere la situazione del centrocampo, non ho bisogno di dubbi, invece lui non riesce a entrare in zucca a questo allenatore. In Zucca chi ti ha giudito, non c'è nessuno che lo contraddice, non c'è nessuno che le dice niente, capito? Non c'è nessuno che le dice niente, quindi lui fa quello che le piace, Giulio, tutto lì. Sì, quando già è vero, ma comunque andremo a vedere adesso che cosa mi combina. Io capisco il turnover, tutto quello che vuoi, non ci sono dubbi, bisogna farlo il turnover, però non le puoi giambare 4, 5 alla volta, devi cambiare 1, 2 massimo per volta, ma no 4, 5, 6, anche 7, 8 le ha messo tutti in un po', non ci riesco, Lugano lo stesso, si stava mettendo bene il Lugano, ma perché non lo fai giocare continuamente questo ragazzo? È chiaro che non riesce mai ad esprimersi ad altissimi livelli, se non lo vuoi giocare. Non lo fai giocare, è chiaro che ecco quello che mi dà fastidio, non riesco a capire, ma comunque saremo a vedere, è lui che comanda e vediamo bene, cosa vuoi che ti dico qua? Non so proprio cosa dirti. Infatti, lui che comanda non ci vuole dire niente, ripeto, se non la società dice ma cosa facciamo con questi giocatori che non stanno giocando, che qui e là. Ti ripeto, lui non ha nessuna iniziativa, noi siamo chiamati a squadra, ok dai, giù, io vado a sistemarmi il cane, sono già le 7:20, se ci sei, ti trattieni, sentiamolo più di una ventina di minuti e risalgo. Magari chiama qualcuno, non lo so. Se c'è qualcuno che vuole entrare, io vado a portare il cane giù, ok? Ci sentiamo dopo. Ok, qua, sì, sempre che non mi chiamano da giù. D'accordo, qua, buona passeggiata allora con il cane, dai. Ci sentiamo casomai, se non ci sentiamo dopo, ci sentiamo eventualmente domani. Ok, ciao qua, grazie per la chiacchieratina nel prossimo, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, giù. Andò, se coincide.